Siamo di fronte a una situazione che evidentemente sta cronicizzando, cioè i dati della povertà assoluta, stiamo parlando di quella e non della povertà relativa, restano altissimi, siamo quasi a 6 milioni. Stat anche nell'ultima fotografia che ha fatto della condizione nel paese ci dice che sostanzialmente anche nel 2004 la situazione è variata di poco, ma comunque molto molto grave. Appunto, stiamo parlando di quasi 6 milioni, il 9,8% dei cittadini italiani, quindi uno su 10, che vive in condizioni di povertà, di 2 milioni e 200 mila famiglie che dicono dell'8,4%, una percentuale altissima, e che è una quota sostanzialmente identica al 2023. Ciò che veramente fa pensare, che spero apra un dibattito serrato su questo argomento, è che nel 2024 la povertà relativa è cresciuta. La povertà relativa è quella che interessa a tutte quelle persone che si trovano in condizioni di difficoltà e che potrebbero scendere verso la povertà assoluta, e anche quella degli individui, delle singole persone, è salita al 14,4%. Altri due dati soltanto per fotografare la situazione: quella dei minori, che è gravissima, perché abbiamo il 13,8% di milioni, circa 1.300.000 bambine e bambini che vivono in condizioni di povertà. E l'altro dato che fa pensare è che il mezzogiorno resta, diciamo, l'area più colpita, col 10,5% delle famiglie povere. E poi ci sono le famiglie straniere, che sono quelle che soffrono di più questa condizione, e non ultimo si conferma il dato che non basta lavorare, cioè si è poveri anche lavorando. Questo in buona sostanza è il quadro che evidentemente dice di una difficoltà che ci portiamo dietro ormai da troppo tempo e che va affrontata con politiche strutturali. Questo è poco poco evidente. Prima di arrivare anche alle soluzioni, insomma alle proposte che avanzate anche come Alleanza contro la povertà, volevo fare un'altra domanda. La pandemia sappiamo che ha giocato un ruolo significativo nell'aumento di questo dato, che appunto è aumentato da 5 anni fa, ma ci sono anche altre cause? Beh, l'inflazione è una delle cause principali. L'inflazione è sempre una tassa piatta sui poveri. L'inflazione colpisce soprattutto le fasce più basse della società. Noi sappiamo che è una delle cause che agisce non soltanto in Italia sui livelli di povertà, anche in Europa e nel mondo. Sono i tassi inflattivi che, come sappiamo, sono aumentati molto nel corso di questi anni e quindi hanno colpito sostanzialmente soprattutto chi non ce la fa, chi è in più difficoltà, chi ha più difficoltà. Questa è la prima causa. L'altra causa è il lavoro povero. Nel momento in cui anche Istat ancora ci conferma che pur lavorando si è poveri anche nel 2024, e cioè che oggi non è più sufficiente fare uno o due lavori per avere una vita dignitosa, questo è certamente un elemento che va tenuto sotto controllo. Indicherei queste come due cause principali. E poi una terza, una necessaria, indispensabile a questo punto, riforma del sistema di welfare, delle politiche sociali e delle politiche non solo sociali, del welfare socio-sanitario. Sappiamo che le declinazioni della povertà sono tantissime oggi. Oggi si è poveri perché si è usciti dal mercato del lavoro, ma si è poveri lavorando, come abbiamo detto, e qualche volta si è poveri anche nell'accezione di non potersi più curare. Sappiamo che anche alcune defezioni della sanità pubblica, delle liste d'attesa, cioè mettono le persone non più nella condizione di potersi curare. Anche questa è una nuova forma di povertà che va tenuta sotto controllo. Bisogna anche ripensare forme di sostegno come quelle che sono state recentemente abolite, anche se parziali, insomma, non sempre efficaci come il reddito di cittadinanza? Allora, intanto bisogna ripristinare un principio, quello universalistico: il passaggio dal reddito di cittadinanza all'assegno di inclusione al supporto alla formazione e lavoro ha determinato una verifica della capacità dei cittadini e delle cittadine italiane di poter o di non poter accedere alla misura di contrasto alla povertà attraverso un principio categoriale. È come dire, fino a 18 anni si è poveri, quindi si può accedere all'ADI, da 18 anni fino ai 60 meno un giorno non si può più accedere all'assegno di inclusione sociale. Questa è naturalmente decisione che è diventata legge, in qualche modo ha creato un problema molto molto importante, cioè si è dimezzata la platea con questa legge, con la legge 85, si è dimezzata la platea delle persone che vengono in qualche modo raggiunte dal reddito di cittadinanza e che non sono più raggiunte oggi con questa nuova misura dall'assegno di inclusione. Quindi bisogna intanto ripristinare il principio universalistico, che oltretutto, cioè, ci pare sia un principio iscritto in Costituzione, per cui non stiamo parlando di niente di straordinario. Bisogna fare in modo che ci sia una migliore efficacia delle politiche sociali. Il tema della povertà è un tema multidisciplinare, multidimensionale, non si risolve soltanto con un contributo monetario, si risolve anche avendo un sistema di welfare territoriale efficace ed efficiente. Quindi da questo punto di vista è evidente che vanno fatti tutti gli sforzi perché i servizi sociali, i servizi anche per il lavoro, mi permetto di aggiungere, possano essere efficaci ed efficienti sul territorio e possano aiutare chi si trova in situazioni di difficoltà. Portare da 5 a 2 anni gli anni di residenza per i cittadini stranieri per poter accedere alla misura, perché come abbiamo visto Istat ci ricorda che chi soprattutto colpito nella misura del 35% sono cittadini stranieri regolarmente presenti, residenti in Italia. Oggi la legge prevede che debbano avere 5 anni di residenza ininterrotti. Ecco, se si portasse già 2, molto probabilmente molti di questi sarebbero raggiunti dalla misura di contrasto alla povertà. Ecco, queste 3 cose importanti, ma la prima davvero è quella indispensabile, un ripristino della misura universalistica, perché altrimenti rischiamo di lasciare indietro centinaia di migliaia di persone, come purtroppo sta succedendo.